Perciò accade spesso che chi si trova a ricoprire un ruolo subalterno è disciplinato assai severamente, molto più della controparte, e questa severità proviene proprio da coloro che per se stessi sventolano il vessillo della democrazia, della tolleranza, della libertà d'opinione e di parola, della neutralità, dell'imparzialità, dell'equidistanza. Tutte finzioni che hanno decisamente poco di libertario, propugnate da soggetti che, pur affermando di rifuggire gli estremismi, finiscono per incarnarne uno, il fascismo. Pur non essendo esplicitamente fascista, il paradosso democratico risiede nel fatto che per non negare se stessa, la democrazia deve tollerare suo malgrado chi finirà per distruggere la sua esistenza, e con lei chiunque tenti di criticare chi nei fatti la distruggerà. Questo è quanto mi basta per affermare con orgoglio che democratico non lo sono e non lo sarò mai. Un'opinione in realtà non è mai un'opinione, e soprattutto non è mai soltanto un'opinione. Opinione è quando dico che il gelato al pistacchio non mi fa impazzire, cosa contro cui sarebbe difficile e stupido argomentare. Quando invece, fuori dai confini delle preferenze personali, parlo di ciò che mi circonda, le mie affermazioni non possono essere per nulla apolitiche, equidistanti o neutrali, ma situate e indubbiamente di parte. Se un'affermazione è irrispettosa, dannosa e pericolosa, nessuna legge dell'universo conosciuto impone che vada preservata soltanto in quanto opinione. Ognuno ha il sacrosanto diritto di sputarci sopra. Se la cosa vi spaventa, ciò riguarda voi e il vostro segreto timore che il vostro privilegio e la vostra parzialità, di cui forse neanche voi siete a conoscenza, venga allo scoperto, non il vostro interlocutore o interlocutrice. Perciò no, non avete diritto alla vostra opinione. Con questa rubrica quindi vi salutiamo, lasciamo i microfoni a prove tecniche di trasmissione, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e ci risentiamo il prossimo mercoledì per continuare la discussione di oggi sul lavoro e sul rifiuto del lavoro. E un saluto a tutti e tutte coloro che sono privati e private della propria libertà, in particolare anche a Chiara e a sì, tutti. Sì, che Chiara sappiamo che sente sempre Radio Onda Rossa. Un bacio. This is not really happening.

forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Rossa 87.9 in modulazione di frequenza inizia prove tecniche di trasmissione alle 21.13 sempre qui su 87.9. Onda Rossa che si può prendere attraverso lo streaming usando www.ondarossa.info e cliccando in diretta. Indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e per quanto ci riguarda in maniera più mirata disorder@ondarossa.info. 6180 4001 è il numero di conto corrente decisivo rispetto alla nostra sopravvivenza, che va intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Vedevolsci 56 00 185 Roma. Naturalmente poi sul sito si può trovare questo e anche la modalità PayPal. Alle 22.30-22.40 circa, 25 o'clock, che andrà a concludere questo mercoledì 30 aprile 2014. E noi iniziamo questa sera con l'ultimo lavoro, anche se ormai di 2 anni fa, di Ruga Ru. Si chiama M'Gomeni. Inizia molto piano, ma è così. Ci ascolteremo un paio di brani da questo lavoro che esce per la Timpanic Audio, una etichetta americana. Questa traccia si chiama Vdok e la seconda Midierno. Ebbene, dunque, Rougarou, da questo album del 2012 dal nome Ngomini, per un'etichetta assai sensibile a queste sonorità un po' tra IDM e ambient, in questo caso molto criptica. Lui in realtà si chiama Andrei Simonovic e proviene dall'Ucraina, e che in passato abbiamo anche apprezzato come Nahag, in una dimensione decisamente più etno-trance. Intanto andiamo a salutare chi è all'ascolto, in questo caso Alicia, la quale sarà contenta già che continueremo su queste frequenze, su queste sonorità, trasferendoci in Francia con Nebulo. Questo è il penultimo lavoro dal nome Cardiac, e oggi ci ascoltiamo Quence e Baikal. dalla Francia, dunque Nebulo. Vero nome è Thomas Pujols, da questo Cardiac, secondo, no, che dico, quarto lavoro uscito nel 2012 attraverso Lyman Records, etichetta tedesca, parallela alla ben più famosa Ant Zen. Un inizio dunque di prove tecniche incentrato, focalizzato su queste atmosfere molto evanescenti, molto aeree, con Rougarou e Nebula. E quindi cambiamo registro, torniamo indietro negli anni. Dirk Evans e Mark Verheggen a formare i vecchi Clinic, che recentemente sono tornati in auge. E invece all'inizio della loro carriera, in realtà questo era la, per essere più precisi, verso la fine della loro prima fase della loro carriera, uscì questa compilation dal nome Black Leather nel 1990. Una compilation che racchiudeva tutti gli EP che poi nel tempo erano divenuti sempre più rari a trovarsi, soprattutto su vinile, e quindi fu ideata questa compilation su supporto digitale. Da questa Black Leather ci ascoltiamo Go Back, anzi Fear, e dopo la dodicesima traccia dal nome Go Back. Evidenziale compilation da parte di dei Clinic, si chiama Black Leather, uscita in due versioni, questa della Antler Records nel 90 e ristampata poi nel 2005 attraverso la Ense Productions di Udo Wiesemann. Contiene tra i brani, diciamo, meno noti ma altrettanto validi di questo duo belga, tornato, dicevo, in auge recentemente, anche se dal vivo in realtà Dirk Evans si avvale della collaborazione alle macchine di Borg Bodybeast, mentre Mark Verheggen si limita, tra virgolette, alla composizione su disco. Adesso arriviamo qui in Italia, un artista dal sottoscritto molto stimato e lodato, si chiama Like Wake, progetto proprio qui di Roma, che nasconde il nome di Stefano Di Serio. Stiamo parlando di succulenta dark space ambient di lunga data, giacché il nostro Stefano Di Serio in realtà iniziò la propria carriera molti molti anni fa attraverso la Minus Abens, etichetta storica qui proprio italiana, esattamente di Bari, e dopo molti anni di assenza è tornato recentemente con una serie di incisioni. Stasera abbiamo un album del 2011 che si chiama Modern Number 2, una lunghissima traccia di oltre un'ora che noi ci ascolteremo divisa in tre parti, e oggi ci andiamo ad ascoltare i primi 10 minuti di questa Modern Number 2 per Like Wake.

Lui è Like Wake, Stefano Di Serio da Roma. Un'ottima progettualità, dark ambient. E questa sera ci siamo ascoltati in Mother Number 2 nella sua prima parte, una traccia lunghissima di circa 70 minuti, e un paio di estratti ce li riserveremo anche per le prossime settimane. Salutiamo il buon Like Wake, spesso anche ascoltatore di queste frequenze, di questa trasmissione. Dall'ambiente oscuro di Like Wake passiamo alle costruzioni armoniche molto sperimentali di Gianluca Becuzzi, che qui ha recuperato due vecchi nastri e le ha riassemblate in questo CD che si chiama Beyonded. E da questo lavoro del, credo del 2012, ma andrò a vedere meglio, ci ascoltiamo la quarta traccia, che si chiama B002.